Ciao a tutti e tutte, eccoci a una nuova puntata di Mala Radio che racconterà il 15 ottobre, giorno in cui entra in vigore il Green Pass obbligatorio sul lavoro. A Milano si sono create diverse proteste in diversi punti della città. Partendo dall'università, queste proteste sono riuscite a confluire in un corteo spontaneo che ha percorso diverse tappe. Quindi partendo dall'università, dove? Dopo alcuni interventi fuori dalle mura universitarie si è voluti entrare dentro a fare un corteo che poi si è ricongiunto in Piazza Fontana con i lavoratori dell'AMSA, le educatrici e gli insegnanti. Siamo andati a trovare anche i bibliotecari che erano in presidio davanti alla Sormani, che ci hanno raccontato la situazione delle biblioteche in questo momento. Da Piazza Fontana poi è partito un corteo spontaneo che è andato a raggiungere altri lavoratori davanti all'Arco della Pace e da lì il corteo si è diviso. Alcuni sono rimasti lì a presidiare l'Arco della Pace, alcuni sono andati a portare solidarietà al deposito AMSA di Primaticcio, dove i lavoratori rimasti fuori per mancanza del Green Pass stavano bloccando il deposito. Il racconto è composto dalle voci della piazza. Speriamo che in futuro riusciremo a raccogliere voci del genere. Vi ricordiamo che c'è sempre la possibilità di mandarci audio di resoconti, racconti, riflessioni. Speriamo in futuro di riuscire a continuare a fare questi racconti il più immediati possibile di quello che succede, giorno per giorno, protesta per protesta. Infine, ci sarà anche l'audio di un resoconto di un presidio davanti all'STD Agrate Brianza. Vi ricordo il nostro numero 351-9182-889, lì ci potete mandare audio su Telegram, Signal, WhatsApp oppure anche alla nostra mail malaradio@autistici.org. Scriveteci in modo che potremo dare sempre più conti immediati dopo ogni protesta. Buon ascolto e alla prossima! Vi ricordiamo inoltre che lunedì comincerà il processo contro Uber e molti lavoratori solidali e rider si troveranno davanti al tribunale in Largo Marco Biagi alle ore 10. Hi guys, on Monday 18th October the trial against Uber it will start. So, let's meet outside the court to support the workers and to protest against Uber and the other food delivery companies. Let's meet in front of the court in Corso di Porta Vittoria at 9:30 a.m. A mini pig, what can you offer? Snakes in the grass, no trust them. Point and kill any imposter. Small trouble never stuck in custom. Cause not everywhere's pretty, but for now, bring the narrow, come gimme. Can't stop greatness, what's the point in trying hard not to recognize if all this pressure we apply? Tell my people, rise up, can never be silenced. You think we're apologetic, I think we're defined. Mommy say I gotta be a go-go-getter. Got the devil trying to tempt me, but I know better. Never been the type to not acknowledge all the signs. It's the fact that everything I want is in front of my eyes. So when I see it die, one thing kill. If I born it, it's mine. Chiediamo più aule, chiediamo più posti, siamo qua per studiare, lavorare! Pensiero critico, pensiero critico, pensiero critico, pensiero critico, pensiero critico, pensiero critico, pensiero critico, pensiero critico, pensiero critico, pensiero critico, pensiero critico. Pensiero critico, pensiero critico. stanno studiando e lavorando, ma abbiamo un problema urgente di lavoro, di istruzione e di democrazia! Siamo qua per dire oggi, per far vedere a chi ci dice che in Piazza Roma c'erano solo quattro fascisti, a chi ci dice che siamo solo dei novax scriteriati, che siamo studenti, siamo lavoratori, vogliamo lavorare, vogliamo studiare con delle condizioni di vita oneste, sane, non come schiavi. E per noi siamo contro il Green Pass, in quanto misura politica. Al governo della pandemia di gestirla non gliene frega niente, basta il fatto che noi studenti conosciamo bene di vedere che con il Green Pass è cambiato qualcosa in università, ci sono forse tolte le prenotazioni alle lezioni, ci sono ancora a capienza massima, ma veramente a capienza massima, ma con tutti gli studenti che possono entrare dentro le aule, ci sono i tamponi gratuiti che servirebbero anche ai vaccinati, perché purtroppo questo vaccino non ci copre al 100%, no, non è stato fatto alcun intervento strutturale, la biblioteca grossa è ancora chiusa e noi semplicemente perché scegliamo di non scaricare il Green Pass per protesta politica non possiamo entrare in università, e invece quelli che lo scaricano pensando che sia uno strumento sanitario e dicono finalmente possiamo ritornare in università si ritrovano fregati, perché l'università di un rientro in sicurezza non ne vuole sapere, e questo non soltanto in università ma in tutta la società. Sui posti di lavoro puoi accedere se hai il Green Pass, ma la sicurezza non c'è, siamo un paese che ha 3 morti al giorno sui posti di lavoro, siamo un paese... Siamo un paese in cui finalmente la classe operaia sta capendo che la lotta contro il Green Pass non è, come dicono i giornali, una lotta di Novax, categoria che neanche sappiamo che cosa vuol dire e categoria anche che rifiutiamo. Non è la lotta dei fascisti, nonostante cerchino di infilarsi sempre e fare quello che gli riesce meglio, cioè dividere la classe lavoratrice. Adesso gli operai finalmente stanno capendo, e anzi alcune frazioni e porzioni di classe operaia l'avevano già capito da tempo, che il Green Pass è soltanto l'ultimo degli attacchi al diritto al lavoro e nel nostro caso anche degli attacchi al diritto allo studio che stanno colpendo noi lavoratori e noi studenti. Per cui lottare contro il Green Pass non è una lotta di Novax, non è una lotta di complottisti e non è neanche una lotta per la libertà tout court a caso, è una lotta per poter vivere bene e per far sì che una volta che il Green Pass verrà abolito e si spera la pandemia finirà, il ritorno alla normalità non sia un ritorno alla normalità in cui noi abbiamo una delle rette più alte dell'università, un ritorno alla normalità in cui appunto le biblioteche continuano a rimanere chiuse, un ritorno alla normalità in cui ci siano ancora i criteri di merito per accesso alle borse universitarie e una normalità in cui ci siano ancora tagli al diritto all'istruzione. E per gli operai la stessa cosa, lottare contro il Green Pass vuol dire soltanto questo è l'inizio. Questo è soltanto l'inizio, lo stanno dimostrando tutti gli operai che l'11 ottobre sono scesi in sciopero generale chiamato dai sindacati di base, che oggi stanno scioperando non soltanto per il Green Pass ma appunto perché il Green Pass è solo l'ultimo degli attacchi. Ad Amazon il Sicobas, ad Amazon di Piacenza ha stabilito un record mondiale, la prima volta che viene bloccato in tutto il mondo uno stabilimento Amazon, sono già piovute 8 denunce. A Prato i padroni della fabbrica Dreamland hanno picchiato gli operai in sciopero mentre la polizia stava a guardare. Lo ripetiamo, questo è un paese che adora controllare i lavoratori e adora schiacciarli. Per cui il Green Pass è soltanto l'ultima di queste infami attacchi al diritto al lavoro e al diritto allo studio. Il vaccino non c'entra un bel niente, a noi non interessa parlare di vaccino perché non siamo virologi e non ne abbiamo le competenze. Siamo studenti e pensiamo di poter parlare di politica perché la politica è quello che viviamo nel nostro paese tutti i giorni. Green Pass! No Green Pass! No Green Pass! Se non cambierà, bloccheremo la città! Se non cambierà, bloccheremo la città! Se non cambierà! Basta! Basta! E ora di cambiare! Sciopero! Sciopero! Generale! Basta! Basta! È ora di cambiare! Sciopero! Sciopero! Generale! Basta! Basta! È ora di cambiare! Da oggi, come tutti gli enti pubblici, non possiamo lavorare se non presentiamo il Green Pass. Come in altri posti, molti di noi sono vaccinati, hanno Green Pass, ma sono venuti per solidarietà. Però appunto, ci sono varie situazioni, ci sono quelli che da ora in poi lavoreranno, quelli che faranno tamponi due volte alla settimana, chi si giostrerà in qualche modo, però la cosa essenziale è questa contestazione dell'uso politico del Green Pass. Non è uno strumento sanitario, non c'entra col vaccino, c'entra solo per condizionare la gente a vaccinarsi. Gli utenti lo stesso sono costretti da agosto a presentare il Green Pass. Questa è anche una cosa abominevole. Se pensi che pagano le tasse sul servizio pubblico e se resto noi sono costretti a pagare per lavorare, se vogliamo. Sì, tieni conto che dai 12 anni compiuti in avanti anche i ragazzi e le ragazze vengono controllati con la richiesta del Green Pass e fino a qualche giorno fa anche regolarmente di un documento di identità. Fai conto, perché magari uno può avere il Green Pass e qualcun altro, e quindi all'entrata delle biblioteche spesso o quasi sempre chiedevano anche cioè, documento di identità. A me è successo di vedere tre ragazzine di 13-14 anni appena uscite da scuola che tornavano insieme a casa, arrivare alla biblioteca perché volevano prendere dei libri, una aveva il Green Pass e potuto entrare, due abbiamo dovuto lasciarle fuori dalla porta della biblioteca. Una cosa che da bibliotecario ho trovato mortificante. E questa imposizione del Green Pass anche per i ragazzi è una cosa che sta bombardando, è una espressione che hanno utilizzato i nostri colleghi bibliotecari francesi, che da quest'estate si sono mobilitati anche con scioperi. L'associazione dei bibliotecari francesi ha detto che l'imposizione del Green Pass nelle biblioteche pubbliche è una bomba a frammentazione sulla pubblica lettura. Questa cosa sui più giovani, sui ragazzi e anche su tutte le fasce più, diciamo, marginali della nostra utenza, che appunto magari per problemi di lingua, per problemi di praticità, per problemi di mancanza di permessi di soggiorno non possono, come dire, facilmente procurarsi questa certificazione, è un massacro dei nostri servizi nelle persone a cui più servirebbero. Poi scusa, volevo dire, se pensi che le biblioteche rionali dovrebbero essere anche dei punti di riferimento culturali nelle varie zone del periferiche anche della città, così dei luoghi di accoglienza, di inclusione, ma quello dei bambini, dei ragazzini è una cosa terribile, perché già fai fatica ad attirarli verso i libri, così sembra proprio di dire vabbè, andate a giocare al parco col telefonino, cioè a un certo punto impedisci a quelli che vogliono venire, impedisci di entrare, è un accanimento. Cosa succederà quest'oggi? Noi appunto siamo cittadini e quindi utenti di cinema, teatri, ristoranti, biblioteche a nostra volta, siamo lavoratori e quindi come tutti quanti lavoratori da quest'oggi siamo costretti a presentare questa certificazione per esercitare il nostro diritto al lavoro, ma siamo anche bibliotecari, questa cosa è il motivo per cui siamo qua e quindi questo motivo dell'accesso alle biblioteche pubbliche con la certificazione, inciso, nelle librerie si può entrare liberamente. Questo mi sembra un particolare non da ridere, questo è il motivo per cui siamo qua, quindi poi vedremo cosa fare in quanto cittadini, in quanto lavoratori, e possiamo muoverci anche negli altri posti, ma intanto siamo qua. Allora, il Comune di Milano, per la nostra utenza, nel senso che la cosa che ci fa più male è dover mandare via i ragazzini che hanno appena compiuto 12 anni, che non hanno il Green Pass, che fino al giorno prima potevano entrare, quindi un ragazzino che fino al compimento del 12° anno poteva entrare senza controlli, adesso ci deve mostrare il documento che spesso non ha, il Green Pass che spesso non ha, e noi dobbiamo respingerlo se non è provvisto. Questa cosa a me è proprio, anche da genitore, mi spezza il cuore, perché cioè, ci sono dei bambini che vedendosi trattati in quel modo secondo me non torneranno più in biblioteca. No, certo. Ancora questa cosa, altre biblioteche in Italia hanno deciso di fare comunque qualche cosa per alleggerire questa situazione, ad esempio consentendo a chi prenotava dei libri almeno di arrivare fino al bancone per ritirarli. A Milano le biblioteche hanno chiesto ufficialmente quest'estate un parere alla prefettura sulla possibilità di poter ritirare i libri in biblioteca e sulla possibilità ad esempio anche di poter fare un banchetto al di fuori della biblioteca per, non so, offrire dei libri a chi non aveva il Green Pass, oppure spostarsi con postazioni mobili per agevolare il libero accesso a un servizio della biblioteca. Ecco. Sì, anche noi uscire con la cargo bike, dobbiamo allontanare quelli sprovvisti di Green Pass se uscissimo all'aperto a fare un banchetto. Perché il prefetto ha risposto ufficialmente a questa interpellanza del Comune di Milano dicendo che assolutamente il divieto riguarda l'accesso a qualsiasi servizio. Non la sede. E tra l'altro noi abbiamo una convenzione con le librerie e le edicole di Milano, alcune ricevono il nostro materiale, in libreria e in edicola puoi ritirare il materiale senza Green Pass, e in biblioteca lo stesso materiale non puoi ritirarlo, quindi è una contraddizione totale, illogica, cioè perché in libreria si può prendere lo stesso materiale che in biblioteca non si può prendere, non ha senso, non ha senso sanitario. Basta! Basta! È ora di cambiare! Sciopero! Sciopero! Milano, domani il Parlamento, politici scappate, ancora! Bergamasco. Il Green Pass non vincerà. E tante famiglie. Allora, io vorrei fare un passo indietro. In questo momento, con tutto rispetto della libertà vaccinale, qui quello che si mette in discussione è il Green Pass come dispositivo discriminatorio per il diritto al lavoro, per il diritto a stare a scuola, per il diritto a ogni bambino di essere accompagnato dignitosamente. Dai servizi sociali ai servizi all'infanzia e soprattutto a limitare le libertà di tutti. Allora, un invito a chi è a scuola oggi. Non esiste che si impedisce a non accompagnare soprattutto i bambini al nido e della scuola dell'infanzia e i loro genitori. C'era l'arco della pace e si è leggermente separato. C'è chi è andato a piedi, chi è andato in metro e chi invece ha deciso di rimanere nella piazza a sentire. Davanti al deposito dell'AMS, dove i lavoratori stanno bloccando da questa mattina presto, sono arrivati anche gli studenti, le lavoratrici, i lavoratori della scuola. Antioperai, antiproletari di controllo verso la popolazione e soprattutto verso i lavoratori. Per cui noi volevamo ringraziarvi a voi, tutti quanti, perché sì, molti di noi sono già studenti lavoratori, ma come studenti volevamo ringraziarvi perché voi non state soltanto difendendo il diritto del lavoro dei vostri colleghi e vostro, ma anche il nostro, esattamente come noi cerchiamo. Come noi in questo momento stiamo cercando di difendere il diritto all'istruzione dei vostri figli. generalizzata in cui noi impariamo a fare esattamente il contrario di quello che voi state facendo, a farci andare bene tutti. Buongiorno a tutti, oggi è stato organizzato un presidio davanti ai tornelli della ST Microelectronics da parte dei delegati RSU USB. Il tema del presidio è stato il no al Green Pass. Oggi è una data importante per il nostro paese perché entra in vigore una legge gravemente discriminatoria nei confronti dei cittadini che riteniamo leda dei diritti costituzionali fondamentali. Noi siamo l'unico paese in Europa, in compagnia di pochissimi paesi nel mondo, ad aver introdotto una misura del genere, che riteniamo sia strettamente politica e non abbia nulla di sanitario. Una misura che non ha nulla di sanitario perché diversi virologi hanno confermato che anche una persona vaccinata possa essere contagiosa. In ogni caso, la copertura da parte di un vaccino dura alcuni mesi. Dopo 3 mesi praticamente in letteratura scientifica dicono che non ci sia più copertura anticorpale. E quindi è un controsenso anche scientifico il fatto che il Green Pass duri un anno. Noi riteniamo che l'azienda in ogni caso debba farsi carico di tutti i costi connessi alla sicurezza. Per noi il Green Pass è una misura politica e non sanitaria, ma facciamo un ragionamento: se anche fosse una misura sanitaria e riteniamo che le condizioni per definirla tale non ci sono, una misura sanitaria è connessa alla sicurezza sui luoghi di lavoro. La sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere a carico del datore di lavoro, non ci debbano essere oneri per i lavoratori. E noi siamo nella prospettiva per la quale adesso un lavoratore deve pagare per andare a lavorare, è una cosa inaccettabile. Non riteniamo neanche accettabile il fatto che la nostra azienda, benché abbia profitti importanti, un'azienda che con la crisi pandemica ha visto esplodere i propri profitti, ha prospettive solide per i prossimi anni, non ha fatto mezzo passo in avanti per contribuire in alcun modo con i lavoratori al costo dei tamponi. Noi riteniamo che la sua posizione sia una mancanza importante che va anche a inasprire il clima di confronto con i lavoratori e con la RSU. Viceversa, riteniamo importante in questa fase lanciare un appello a tutti i colleghi, a tutti quanti, per non farci dividere da questo cinico governo che sta mettendo in atto tutte quante le azioni che può per instaurare una conflittualità orizzontale tra le persone, dividerle in vaccinati e non vaccinati. Noi non accettiamo assolutamente questo tipo di impostazione. Per noi i lavoratori devono essere uniti nel confronto tra di loro, corretto, e confliggere rivendicando condizioni normative, salariali e sanitarie più, di maggior favore,